La calda estate dell'euro si sa come comincia, ma non è chiaro come finirà. Le cronache di ogni giorno raccontano i momenti drammatici dei mercati finanziari, il crollo delle compravendite immobiliari, le difficoltà della politica di tutto il mondo che non trova risposte adeguate e nell'attesa c'è chi, grazie alla speculazione, fa affari d'oro. Da sempre, infatti, quando qualcuno sconta grandi perdite, altri registrano grandi guadagni. Di sicuro regna l'incertezza più assoluta sul futuro, anche a breve termine, che va a sommarsi con le conseguenze negative della crisi economica. Saperne di più non risolve certo i problemi, ma aiuta a capire quanto sta accadendo e capire permette di fare scelte più consapevoli nella vita di ogni giorno, a partire dalla gestione dei risparmi, naturalmente quando ci sono. Per questo Radio 24 ha organizzato una giornata, quella di oggi, dedicata alla calda estate dell'euro. Il punto di partenza è una constatazione: l'isolamento internazionale della Germania. La politica di rigore e sacrifici imposta dai tedeschi era indispensabile, ma ora devono capire che occorre dare una prospettiva ai popoli puntando sullo sviluppo, prima che sia troppo tardi.